c'è sempre un posto per un altro inferno. Un fuoco freddo che sembra eterno, che ti lascia con le ossa rotte, ti leva il sonno la notte. In un inferno c'è sempre un diavolo che ti tira giù, che fa che il nero è un nero profondo, che ti fa credere che questo mondo è tutto grigio, tutto moribondo. Ma vai, libera tu sei, vai per la tua strada, raggiungi la tua meta, che il fuoco non ha gocce per ferire la sabbia del deserto, nessuno la può bruciare. Ma vai, libera tu sei, vai per la tua strada, raggiungi la tua meta, che il fuoco non ha frecce per ferire, dopo il mare delle tue lacrime, un nuovo sole da respirare. In ogni inferno sono pupazzi che hanno un'anima strana, che dovrebbero proteggerti dalla luce, e invece ti annegano in un lago di sale, ti levano il respiro e ti senti mancare. In ogni inferno sono venti che ti rubano l'aria, pezzi di vetro che squarciano il cielo, pagliacci mascherati con occhi di paglia, vini di sangue come camomilla. Ma vai, libera tu sei, vai per la tua strada, raggiungi la tua meta, che il fuoco non ha gocce per ferire la sabbia del deserto, nessuno la può bruciare. Ma vai, libera tu sei, vai per la tua strada, raggiungi la tua meta, che il fuoco non ha frecce per ferire, dopo il mare delle tue lacrime, un nuovo sole da respirare. Piano e ne esci distrutto, e qualsiasi prezzo è un prezzo troppo alto, ed il sorriso diventa spietato, e piano piano perdi ogni voce, ogni fiuto. In ogni inferno di spine d'inverno accarezza il tuo viso scarno, e scava nei tuoi occhi un immenso dolore che sfocia nel pianto. Ma vai,